si non ferma. Sì, tipo che avrebbe. Bullshit.

Sì, bene, sono un signore di 60 anni. Non si aveva più di 85-88. Arriva dal medico, però ti va a fare dal medico. Sono trovato il fegato. Dice che ti devo guidare, vedi? Ma ha ragione, magari. Ma hai dai, vabbè. Non tutti, però. Non tutti. Tutti, allora, io al medico non ci vado mai. Ma questo comunale vado. Perché mi conosce un ragno, c'è il centro di solito. Sì, vabbè. Questo è un problema al microfono. Vai. Io lo lascio sulla passata. Guarda, mi pare che stato, vabbè. Non si pensa che un figlio sia stato un giorno, io mi domando, quindi prendo la fiducia, così non ti voglio. Se ti devo toccare? Non mi domando che faccio il mio lavoro, sono stromo, sono marangio, non farò mano fare perché mi devo prima. Sure. No, la c'è in casa. Con la pioggia, bisogna fare un'attenzione al piano, che piano quando piove, anche se la macchina me lo permette, tiene, fa, però sai come? Lo sai dove? Non c'è ancora messo di pesca. Dove c'è Scotland? Esatto, su fuori strada è uscito da lo so, se la presente l'interno, se la c'è non c'è entrato. Io ho sento la macchina in due di aperto. Ma guardi qui, Luca. Beh, mi sono mangiato un bel bicchierotto di latte. Non si è fatto mangiare altro, un po' mal di gola. La pastiglia mi sono preso. Adesso mi tocca a fumarmela. Però... Anche io stanno a fumare, no? C'è questa cosa che sto cercando, non era che te la anche. Ci siamo da qua. Tanto fumo l'andate, no? Come fai io? Fuma su uno, ti faccio il fumo. Beh, ecco, no, purtroppo. È un vizio brutto. È un fumo con la crista, non senso. Scappa, scappa. Maria Luisa, che c'è in ascolto? Maria Luisa. Maria Luisa. Maria Luisa. Adesso non c'è il capello di scappa la sedia. Maria Luisa! Lasci di volte. E addirittura? Stavo pescando. Che lugare? Tu non te ne fai allora. Oh, Polio, chi sei? Tutto poco, tutto. quello là. Prima non è tornato quello là. Allora, signori, con quello a questo, no? Ho fatto qui. Eh? E poco dopo quello l'ha passato. Capo. Quello di Ucchiche. Mi sento veramente 31, anche adesso mi chiesto. Magari, a farlo fare io, magari. Magari, va, mi sarei mai stato un piano. Qua tanto in camera mia mi ha aiutato qualche angolo. Bello, ma che non c'è un angolo, diciamo. E mi sarei organizzato bene. Ma mi sarei rappresentato anch'io, in via di gruppo a me, l'elettronica io sono di testa. Io sono Antonio, anche il tuo consiglio tra palazzo 3 milioni, eh? Beh, purtroppo si devi organizzare bene, non so. E tutte le cose, come ci può stare l'autista, si sono le patenti, e sono soldi, ma che ci cosa? Sì, sì, sì, mi piace avuto la buona storia per farlo. Vabbè, però piano mi sta per il soldato di seri, quelli sottili, con la punta sottile, con le soldature piccole piccole. Vabbè, io già ho la lente, ne ho due, di cui una di mio fratello, vabbè, ma la uso io. Soldatore, la filastagno, che c'è avvicinio, ne ho lo stesso. Vabbè, si deve organizzare bene, un angolino giusto, tuo, una luce tua, bella, forte, e fai lavori. Soprattutto ci vuole l'esperienza. E vabbè, anche quella. Ma ti dico che Gianni, mi arrangio, dai. Se la cavolo un finale, cosa noi facciamo un finale? Non ci vuole proprio niente. Piano piano, ti affilli. Ma qualche cosa non la sappiamo fare, guardavo da uno all'altro, insomma qualcosa va imparata, no? Noi è siamo difficile. La 34. Ah, micidiale. Mi hai fatto qualche estate di ex, Gianni? A voglia. Cosa? Sì, di nuovo. Le canali normali. Anche. Anche nei canali sotto. Ma canali normali. Insomma, un po' tutte le parti. Un FM. Ma in mano laterale? Ah no, in mano laterale io avevo. Vabbè, ci vediamo un po'. Secondo me va. Ma anche io anni fa, non ho fatto di ex, però stavo cercando di chiamare qualcuno, ma anche continentali, uno più di uno mi ha risposto, e a Roma qua arrivavo, io ero piccolo piccolo là. No, io gli arrivavo un po', Santiago Rotto, Santiago Roma. Ma senta la piccola casa, questo tipo tutto pompato, non te la comprendi, ma guarda la mia lavoro che 9.10, 9.20 qua a me. La radio con lei tutta, tutta a mille. Attento l'amico della Sardegna, c'è qua scoppiando lecce, cambio, cambio, cambio. Avanti, zio. Ti ascolto piccolo. Io sono alla porta ancora, se si chiama le normali. Parlando con la Spagna, tranquillamente, sto tornando a fare. Comunque anche a me qualche spagnolo mi ha risposto, ma non lo sapevo più come fare. Ho chiamato e poi basta, no? Avanti amico la cartella e cambia! Ciao! Comunque in spagnolo non siamo. Perché lo spagnolo tu lo parli? Non sono spagnolo, sono un po' di portoghese. Siate francese. Io faccio due spagnolo, sono portoghese che quando gli va a fare l'auto, capito? Diciamo che subito mi sono fatto la concessione, ho modulato un po' questa concessione, poca roba. La concessione è stata un'antenna e via. Il problema è disturbare. Oh, chiamo la sintoma che vengono l'apparato e praticamente ha scritto che l'apparato devo lasciare accompagnare la concessione, se no potrebbero avere problemi. Comunque c'è un altro problema perché io ho modulato per quasi 7 anni senza concessione, non l'ha mai trovato nessuno. Non so se... Ma che tu già? Ah, un tipo ha scritto su internet, fa avere l'apparato, no? E ha scritto praticamente che bisogna fare la concessione, però se lo voleva, potevamo andare anche se per tanto visto così, perché io l'ho durato per 7 anni senza averne mai avuto. Sesso figura, 7 anni. Ci vuole un attimo. Se vogliono, ti trovano, ti trovano, come si trovano? No, io andavo su antenna. Ma sto tenendo adesso, perché non ho. Questa due antenna la stavo mullando senza fare versamento né niente. Tu l'ho fatto, come me la fuci, forse non veniamo quando vuoi, io non sono qua. Ah, io sono qua senza problemi. È un casino che ti trovano comunque. E poi lo sanno più o meno, io ho sempre avuto la concessione anche da me, cioè non ho modulato fino a quando ho avuto la concessione io, dalla prima volta che ho avuto la concessione. Chi te l'ha messo in testa la chiocca? Ecco io, praticamente ho detto, perché non ho preso anche tu già che c'è uno che ci sta guardando un barattino portatile per canali, la Fayette, che non c'ha nulla, c'ha solo i quattro invertiti, dopo gli attendiamo noi a metterlo a posto. E l'hanno pagato 40.000 lire, non lo ricordo ancora. Ah, questa è la Fayette, se sono per la sera con Paola, allora andava bene. Un fatto e mezzo arrivavi tranquillamente posto attorno, che cosa, capito? Se stava bene, insomma, non arrivavi fortissimo, ma io ti sentivo. Figurati, sono portatile, tre canali. Ha scritto a gennaio, qui si apre parte questa volta a gennaio, come tu non hai concessione. No, sì. Il mio fondo di funzionamento, non sono mai a fare il basso. Ma c'è da fare? Però non basta. Non capito, no? C'è da fare il basso, il funzionamento. A gennaio? E di questo non ce l'hai? Qui ti mandiamo la scomposta con Gianni, Gianni lo mandiamo. Ah, ma quindi il prossimo anno ti faccio aumentare. Dunque Cristian, tu entravi da con cuore, mi sbaglio, no? Forse sì, però non me lo ricordo. Che vuoto, perché? No, non mi ricordavo di te. Antonio sì, me lo ricordavo, e Anguglia. Non se la fa parecchio. Ma insomma, come mi sei fatto un era Roberto Mandito, perché era vicino a me. Silvia, l'altra Silvia è Falco Blu. Falco Blu, più o meno quanto è Roberto, dai. Non so quanti grattava lì. Chi è Andrea? Allora, Andrea, era Francesco, pure il fratello. Non c'è ancora tanto una sul testo. E già l'ho vista. Ma che mi con tu, Gianni? Vale, c'è una frase, una che va a casa, ma da turbo. Ah, ho capito. E non ci danno ci da quell'altra, ma sembrava un po'. E l'avrà messa 5 anni fa. No, 5 anni fa, sicuramente. Ma ancora tanto la mia, forse veramente. Ma anche lui, tra l'altro, era di quelli che mi turbava. Roberto Mandito lo stesso, insomma il palazzo di fronte, poi c'era un minacciato, o ti metti a piombo oppure, ehi, ti metti a fare quello che vuoi, infatti Roberto usava poco e niente, e gli turbava un bel. Casini sono. Importante. Questo sono casini. ce la passi già. Buonanotte, auguri se la passi. Infatti pensavo che tu non ci vedi in radio. No, no. Come volevo dimostrare, forse riuscirò a casa. Ancora, però l'ho passato io. Identico. No, ma che... Tu signore, identico. Importante. Ma il tuo signore. Io. Cosa? Ma te la passavo, Gianni. E qua arriva a fare uno scalo. Figurati. E mi ci va a casa. Sicuramente. Comunque, il corso perché la passi tu, non mi interessa. Se c'è, non mi umiliate nemmeno. Tanto di blocco sulle sanzioni. Io mi figlio, non vedo. Cosa? Io mi figlio. Come? Sì, sto giù. No, non ti ho capito. Tu mi figlio. Imbecille era già quello. Imbecille sì. Tra l'imboccia e luce la portata. Sì, se non frequenta lo stesso. Ma già, non lo so. Ho chiuso. Dopo dove arrivo? Una scala. Me lo atto. Allora. Sicuramente vicino a te. A te? Passa due. E qua c'è la pista. Ma sto segnale, vedi qui dentro questo cicciato. E allora qua vicino a casa, no? E marica, tra me e te, mica. Oh, è probabile. Ma tu puoi morire? Qua è appena appena... Ma forse avrà aumentato adesso, non sono riuscito a passarlo. No. Questo è il nome più vivi qua. E lui è appena appena più furtivo di te, ma appena appena, non molto. Non è scappa. Comunque già ti sento, non ti mettere problemi, auguria. No, è fatto, non c'è problema. C'era qualche vicino di casa. Sicuramente è in zona, Ma si al centro. Sicuramente la terra arriva più forte. Qua non c'è 9.30. No, qua sì. Io? Lo fischio, sì. Scappa. Che gusto che ci prendo, no? Che gusto, guarda, non so come definirlo questo qua, ma... Abbastanza per il video, sento per il video. Vincendo 2-1, no, 2-0. Con chi? Con Brescia, cazzo, ma sì, bre. Sì, cosa di cavolo. Hai visto che sei stato paziente, abbiamo iniziato a su qui, che ho iniziato a malassino. Hai visto già la Juventus di domenica? Sto giocando con una squadra di eccellenza. Ah, e chi vira me? La, come si chiama? Il Livorno, mi va, no? Il Roma sta a squadra. Sì, ma noi non ci va molto, c'è niente di partite, io penso, tutti o nulla. Quale gioco di strada, lei me la guarda? Vabbè, quella la guardano tutti. Ma io sono interista, là. Un po' te la seguo. Non molto, però un po' la seguo. Il cane, la Juventus, era con il Treviso. Che ne ho fatti? Ma che ne ho fatti, interista? Tu vuoi? Dì, grande Inter. È stato spazio, interista. Cari dai. Juventino, mamma mia. La uso la Juve. Qua le altre squadre non le odio, ma io questo la odio. È una squadra, mamma mia, cucci. Mi sembra quasi una moda essere io, non ah no, ma se non mi dica che la bandiera, un bel. Io sono quello che mi dà la pagnotta, chi con quello? Vabbè, mi mancherebbe, ma la Luisa mi ha ascolto, eh? Ancora? Sì. Ma che qualcuno sta chiamando? Non lo vedi? Guarda! Solo passo! Lo passo! Non passo io! Non lo so! Non metto la portata, amico! Non passo! Sì! Sì! Forse dopo qua c'è trovata la porta adesso! Libro, però lo passo! Ma già? Ma se no che me ne vuoi che faccio? venuti a televisione, non c'è niente. E guarda i fumi che c'è la TCS, mamma mia. Vecchi. Sì, ma non c'è problema. proposto. Fatto proprio accuratamente, c'era la foto di Falcone mentre lui fa il direttore con la schiena alla barba. Falcone, la fotografia fatta di profilo, poi ci sono Falcone a Castroccaro, e si sente lui che canta. Poi Falcone super incazzato, e si sente lui che lo parolace, cose del genere. Falcone che fa l'amore, tutte queste cose qua, guarda, c'è la pisciata. Ascoltavo ti fa pisciare le risate, troppo si ascolti troppe volte che a noi. Che a noi? Anche io guarda, perché invece un bel parolaccio, poi mi ascolta da solo, perché se incanta un bel dice non si ascolta. California, dove c'è il canale di sopra? Sono sempre lì, sono su 45. Stai ascoltando? Ma dove li ascolti? Non è un apparato per ascoltare. Perché non ci arriva quell'apparecchio che hai per ascoltare? Sì, volendo, se sintonizzo la frequenza, sì. Scappa. Scappa, gappa. Ma io te la stai usando quell'apparecchio, Gianni? Quale? Gli dati maturi, dai. È un portatile, c'è la terra sua, capito? No, portatile, non è di quelli grandi, no? No, è un portatile. Però fa da 0 a 1800, capito? Quindi immaginati tu cosa tutto prende. Ma puoi ascoltare anche cellulari? Volendo, sì. Grazie a 45 mesi, il collo mi gioco. No, non si va a disturbare, non si arriva per lei. Sì, vai a Claudio. È andato anche là a rompere le balle. Ma no, l'ho fatto tutto, sono incazzato. Importante c'era. Ma mi ha detto che non ci va. Sono a me, tra l'altro poi sono 45 a rompere le scatole. Boh. Secondo me è detta uno. Franco, è detta uno che va a metà portante. C'ha ragione. Tanto una testa la tiro di bianco, che se tutta la gente che chiama sotto fuoco. Ma non era. Chi era? Una donna. E aspetta che ti sei dato un uomo. Io sono portato un linguaggio. Ma la fa, si sta portando la direttiva, non c'è problema. Io la direttiva. Che gusto che ci prende, ma dai. Guardate la pellicola, questa è morta subito. Ma Fratti stava passando. Il Fratti l'ho sentito. Non lo stava passando a casa. E chi? Opa. Che la stava passando? Io? Che ti ha coperto? Quasi al portino lo stesso. Ehi, ma ti sento già, parla tu e prega, te ne la seguo. Anche a me sarà proprio. Non ti capisco, frate. Adesso, ma come sei di fatto? Sì, qua. Sì. come si? Io so. Sì, non riesco. Non è riesco. Tranquillo. Come più 20? 5. Non lo so. No, non lo so. Non lo so. Thank you. bambino qua, dai, lo prendo, aspetta. E io, avete non accettato, strutture si posizionano in una parte, non è possibile che Luca dalla parte mia arrivi così forte e riesca a passarlo. Grazie. campioni. Però la Galavella ne prende una qua di fronte a me. La posizione stamattina la stavo guardando, è verso di me. Guarda, ti faccio solo, ma devi essere intelligentissimo, Luca. Tu esci da casa tua, mi stai seguendo? Esci da casa tua, stai attento. Giri l'angolo che praticamente sale da via Angona, attento, via Angona piccolo B, eh? Angolo, via Pietro Pillero, guarda in direzione della grattacielo per vedere cosa vedi. Capo, ma già la vedo che da casa, Claudio, la vedo da casa, tranquillo. Bravissimo, bravissimo. Infatti io ci stavo macinando su quello, Vabbè, adesso non lo vedo bene, bene, perché c'è l'albero che purtroppo... Quello che non è fuori, la vedo benissimo da casa io. Perché c'è un albero che è un bel alto, poi con le furie non si vede molto bene. Sì, comunque più o meno siamo arrivati, dai. Perché direttiva noi ce ne siamo tante qua a Sassari. Poca roba. Ma non volevo dirlo, però non me la continuo, capito? Così, così lo sanno tutti quelli che ascoltano. La posizione cercate quella da sola. Io mi sono trovato. Tra via Pietro Pigliaro, via Angona, piccolo B, si vede chiara la chiara chiara. E da tutti i lati, tutti, Porto Torres, il mare, il monte, quella mia zona, Alghero, tutto libero, la via come vuole. Sì, che bellino. Cappa, dai. Cappa, è purtroppo la direttiva, insomma, un casino. Ma tu, bella, lavorati sopra, poi vedi tu da fare. A noi. Luca, passa anche a te. Passa anche a me. Sì, qualcosa sì. Ciao, bello. Ciao, Saverio. Allora, dove va a parte la portata? Beh, beh. Uia, uia. Guarda, bellino la portata. Un po' che lo credo che passa anche a me. Sarà culinato, però non devi passare pure a me. Ma io sono qualcosa. Cosa? Io sono al corso, vicino alla stazione. Figurati. Stava buttando addosso, ti spacca, non lo so. Comunque qua passa solo Franco. Franco e Adriano. Stop, non passa altro nessuno. Come si chiama l'amico che ha parlato adesso? Non si fa, che è proprio lui che fa nostrare, è Marco sì. Io? Sì, sì. Io sono Gianni, lo chiamo. Ah, è vero Gianni, lo sono, scusa, sono di poco fa, 9:30. Arrivo a me con la zona, perché ce l'ho libera. A me comunque le scappamento avevo, ti arrivo io. Sì, 9:10. Guarda, scusi, guardate l'alta buscavare, mi andava a vela. Oh, io quanto? Oh, mi raccomando, un attimo di discrezione, non fate nome perché non è sicuro nessuno, Ti avevo dato solo l'indizio, mi raccomando. Claudio. No, tranquillo, va tranquillo. Lavorati sopra, tu c'hai le apparecchiature, noi non le abbiamo. Tu ce le hai, vedi un po' tu da fare. Però ripeto, se vuoi venire anche a noi, sono sputtato direttamente al baracchino. Tranquillo, tranquillo, che facciamo la festa, tutti assieme. Allora, intanto subito a Natale. Vedi tu Claudio, subito a Natale. Io porto lo spumante. Oh, io c'ho le tardi, capito? Quelli già, E non aggiungi i polli, oh yeah! Il muro della Iana, vedo già fatto, c'è mia rampa, o si rimane in tria. Ah, quelli cos'è, ma li mettiamo le orecchie? Oh, è solo, è solo, capito? È solo, c'è la parecchia già. Ah, basta, come non detto. No, scappa tutto. Hai capito? Roger! Sono andati 10 anni fa, secondo me. quello per entrare, chi c'è troppo male sotto, è un attimo. Ma io posso mangiare ancora, c'è problema. Non mi senti, non c'è problema. Sta girando verso qua, là comunque Claudio, tu ti sento benissimo sotto, tranquillo. Anche se non la passi bene, ma ti sento, quella è una radio un bel forte, capito? Già lo sai. Dai la ruba, la ruba, tu prendi, segna sempre, la muovi, già si trova, tranquillo. Poi tu hai tutti gli strumenti adatti per queste cose qua. Luca, sei a... Io sto sentendo che sta prendendo fuoco col lineare quello. Ma speriamo che licenzini tutto, anche la casa. No. Ma questo non è un lineare, no. Io sto vedendo. I cassetti di lineare o della mogliere. Ah, se fosse accapponato. Dunque io a Claudio lo sento, tranquillo. Parla Claudio, non ti muovi problemi, io ti sento. Io vado per lui la corretta. Vabbè, ma io lo sai che sono figlio di tutti. A proposito, ma lei Lascialo fare, lascialo fare. che fa sei meglio qui se la vuoi. Ecco, io voglio accordare l'antenna, cosa devo fare? Lo tiro giù, lo scendo giù, provo un po', come la giuria? Con lo stupra, dammi una mano. Ma che c'è la maglia, Gianni? Cosa devi accordare? Una magnum. Magnum? Ma cosa c'è? Se lo metto in macchina? Ehi, ce l'ho già collegato, lo smetto passare verso della International, CPS. Thank you. aperto che ho cercato fuori, così lo provo e vedo un pochino se va bene. Poi posso prendere un prove, facciamo così. Allora, toccati in panni su Guru, però ma ci abbiamo che 3 giorni, quindi bisogna fare un po' con Pango. Ma se prove si va bene. Buonasera! Come è Marco Scorpione? Buonasera, sono tornato, sono ritornato come Nightmare, ritorno sempre. Ciao Marco, che ti sto facendo? Sono rientrato da un girettino di Querrelle, ma avevo una persona in macchina e niente, ho potuto accendere solamente ora. Ciao a tutti, buonasera. Cla è ritornata a casa dopo l'infermeria. Allora, sono contento. Io mi sono tornato a casa alle 8 di sera, stamattina alle 5. Ho fatto la partita andare a Cagliari di oggi perché dovevo raccontare le relazioni, campioni, eccetera, all'altezza di Chiesi. Manifestazione degli agricoltori. Non ti dico il casino che ho fatto per arrivare a Cagliari. Ci sono arrivato, poi rientrando, ho detto ma sarà tutto finito. Discesa a Bonorra, di nuovo lampeggianti, mi hanno fatto deviare da Porto Maggiore, Semecone, Mara, sono venuto a entrare dentro Romana, ne sono uscito da Ittili, guarda, sono ancora incazzato. Ti sei fregato, perché io sono rimasto un po' in colonna e poi invece ci hanno fatto transitare, ci hanno fatto andare dritto, allora eravamo lì vicini, anche io ero sulla 121, stamattina ero ad Alghero, poi ho fatto Bosua, tutto sino ad arrivare a Macomer, sono andato a Rissano, all'andata non li ho beccati, ma li ho beccati al ritorno. Però acceso, ho sentito che dicevano di insomma c'erano un sacco di macchine e poi ci hanno fatto, magari li hanno fatti girare un po', li hanno fatti girare lì verso Semestre, Porto Maggiore eccetera, invece dopo un po' noi ci hanno fatto proseguire lì. Poi più avanti li abbiamo veramente ribeccati, ma ormai era finito il blocco e siamo riusciti a rientrare. Sono arrivato a Fatribu verso le 7:30. Poi a presto a me si è arrivato Marco, sono arrivato a presto a me, però ho trovato tanta di quell'acqua, di pioggia stamattina, io non ti dico, questa sera mi sono rilassato un pochino, mi sono fermato lì da Bazzanza a prendere un caffè perché lavoro con un collega, ma guarda, un viaggio da Bazzanza, poi sono dovuto andare più a Carghero, prendermi la mia macchina, cioè, ma niente, non mi butti più. Quando vado a Cagliari chiamo la polizia stradale, libera la strada, sì, va bene, allora sto partendo, se no vi ammazzate, la giusta. Va bene, comunque buonasera, ben entrato, grazie a quei gente. Allora, Salveio, Luca, poi chi c'è? Cristian, Franco, mi pare che sia in QRX Ascolto, Gianni, non lo so, va bene. Allora, il microfono per Gianni, fai girare tu, cambio. Thank you. accendi, basta da bruciare dove ho. Senti, ma la penna l'hai bucato? Perché arriva la nostra signora delle grazie. Funziona del radio. Funziona del radio. Marco, ma volte sì. Ormai quasi. Ormai sono pressoché arrivato. Adesso vi saluto. Vi saluto, forse riesco, riaccendo con l'apparato da casa. Sempre che grosso, le 11. Forse gliela fo. Va bene, dai, ci sentiamo allora fra un pochino, mi faccio un caffè e poi vengo ancora a fare due chiacchiere. A dopo, chiudo qua, stacco tutto, smonto e scendo. Riprendi Saverio se puoi, altrimenti riprendi tu a Cristian, credo che tocchi, no? Oh, Marcolino, ma domani come sei messo? Ah, benissimo, domani mattina sono alle 9, sono già a Cagliari, figurati, sono messo proprio bene, parto prima di tutti stamattina. Ascolta, guarda che domani c'è il ritrovo, perché devo trasferire tutte le pecore e i muri di nuovo sulla 731. Mi hanno detto, ma adesso 10:30. Dovrebbe essere verso 10:30, io a quell'ora sono già stanco di lavorare. Vabbè, noi ci abbiamo di ricordare qui. Sono Branendi, io ci Branendi la ricattatura, ma stavo planando. Ma se mi si piace qualcuno l'ha fatto, ma sto sciocco, non mi frega niente. Vabbè, dai, ci aggiorniamo domani allora che faccio un po' questo resto, ok? Un piccolo travaso c'è stato di sangue. Va bene, ciao, allora, no, magari poi riprendo, faccio il caffè, mi cambio, metto in tenuta domestica e magari accendo la casa. A più magari con quel berretto oggi ho in divisa spaziale. No, è così, mezzo. Vabbè, ci aggiorniamo dopo allora. Risposati 10 minuti e poi riprendi. Luca, riprendi e fai girare, cambio. Veglia, kappa. No, voglio sentire a Saverio per vedere se ha sciolto tutto. Saverio, non stai uscendo? Negativo. Invece a cosa mantena, noi che l'hai bucato il microfono della radio, gli servali a pisoni. Ah, io ho il piede, che sta facendo male là. No, ma il segnale c'è, è impossibile che sia da PL. Sicuramente ha chiuso il Mickey Game. Tu sei sicuro che è il Mickey Game? Davvero, apri il Mickey Game, sono le CD radio. Ma è Luca che questo signore si è addormentato stasera? Così che l'ho toccato? Sicuramente sì, Claudio. Ci vuole il Vittu sicuramente. Ancora una finita. Basta che termini di registrare qua. Quello che potete dire, me ne dite. Quando sta col foglio glielo mando via a porta. Se non si viene a me, dite al vero. No, Dio, ma lascio a me. Ehi, faccio fappetti, poverino. Ma ci vuole un gabbo di fumo. Ma già fumato ci sarà un gabbo. Proprio fumato, vedi, silenzioso. Anche se là sono male palle, a chi di voi vi mette di qua se devono fare. Ma poi dico questo, come dice Claudio lo stesso. Si ha qualcosa con qualcuno, ma sempre è dillo, no? Dov'è il problema? O no, Claudio? Ma lui è anni che fa così, capito? È abituato a fare queste cose. Ma lui sa benissimo che c'è gente che le piace la radio e fa radio, niente a dire a lui, perché fa radio anche lui molto bene, però c'è gente che la fa diversa a lui, così a me piace fare radio in questa maniera, facendo esperimenti, no? Intanto c'è la cintura a buona portata, mi ci brucia la racchina, ti faccio pure un capo elettrico, così si ammenta. Dai, polizia. Dai, non va. Lasciamo fare. Lasciamo qua. Tanto no. Non vale neanche un centesimo. Perché con la gente non vale proprio niente. Poi non so che gusto ci prende. Ma poi lo fa con la gente piccolina. Che arriva a basta qua. Perché a me Adriano e a Franco non ci fa proprio niente. Sono io. Sì, già ne dà fastidio, l'altro giro si è dito l'altro giorno per lo meno qua. Ma può parlarvi con Adriano già. Mi sentivo, però dà sempre fastidio Luca, è fastidiosa maledizione. Quando c'è con la gratta mi sento tanto la legge se lo muore. Là c'è la gratta nei cuore della moglie, là c'è da un bel. Edu, ma non la moglie. E se la consuma di Berobiano, ma se non siamo quanti consumarli. Ah, si attaccano malacchino, si attacca la malacchina e rompe la scatola. Ma la maglia è già consumata, ecco, non vedi che non sta più grattando. Ci vuole qualche pezzo del rimascio. Qualche pezzo, ma rimarrà da la finita dove? Sì, ha finito quando l'hai mandato. Ho fatto un invio col computer, allora ha finito. Perché evidentemente gli avrei fatto sul video suo. Ma lo conosci bene tu, sì? Ma sicuramente c'è qualcosa con qualcuno. A fare certe cose. Sicuramente quando prendo una persona in odio, allora dico, allora lo posso validare, ma è abbastanza. Sicuramente così è. Ma è stata diversamente, ma secondo me è così. Per me è una valutazione di solo nel canale 10, capito? Che era un canale abbastanza unito, e quello gli dà fastidio. Che è rimasto? Cristian, poi c'era Marco, ha chiuso. tu devi entrare dopo. Cristian, mi piglia te. Appunto. Ma non ce l'ha fatto, sta voglio, è molto libero. No, no, ha messo la macchina a in giù. Allora, tocca a cazzo, ma lo satellitare qua, se non vedi. Ma ti dico la parabola. Bravo. Ecco. Tu ci sentiti, dai. Fai la bravo, te lo stiamo. Sapete cos'è, ti sta guardando. Volevo fregarti, che. Ah, io, a me, tu. E siamo stati questi da casa tua, zitta, mi sono tutti. Cosa si ha come, lo sai, no? Lo sai che noi facevamo questi scherzi. Però siamo gli unici che trasmettevamo attaccati, non ci siamo mai rotti le balle. Ah, Pomponio, ma tra voi una domanda. Aspetta, prima. Bello del vero, là. Io mi giocavo anche con la direttiva, perché a volte facevo salire, andiamo a ricoprire il piscino, facevo scendere giù il giardino, a cercare la posta per... tutto il giorno. Tu quando mi sono a casa, gli ho detto, ma sei già visto io? E che aveva portato che si è accorto che l'ho visto. Quando eri via vestito? Eia. Cioè ti dice che... No, ma quando sei arrivato qua ti già vestito. Avevamo apparecchiature sofisticate. Facevamo la guerra con i camionisti, allora. Visto dove si cazzavano. E prendi tu. Ti stava chiamando Luca. Di Luca. A che riparo mi hai dato? Ogni tanto sparisci, boh, ma perché? Ma no, ma lo mi vedo un piano di birra, mi hai dato anche i compagni giucciati, un paggio, più di un paggio. No, sto parlando di video. Ma stai guardando? La coda dei 2000. Ma quasi compreso, vuoi dire tu? No, no. Ehi, a che ti ha fatto? Un uomo sei raggiunto. Ah, ma dove sei adesso? Sta frusciere. Io sono la scala. Ah, cosa sei? L'accompagnamento dei bisogni. Un fattissimo, sì. Ehi. Alla passata. Già, il microfono non lo di Roberto. A quanto ho capito ieri. Ah, lo sapevo facendo. Ah, ma sono uno. Ma sta lanciando un po', dai. Ma qua non sta arrivando, eh. No, no, io QRM5, QRM5-6 anche, sì, io non lo sento. Luca, a me i baghetti siccome fanno tutti. Ma cosa? Se un QRM è sempre che sto cagando io. Questo farà anch'io, il 340, la Intec. Non so che cavolo va. No. Oia. Radio, anche se la microfono originale ma sentivo molto meglio di quello. Secondo te qualche filo sta mezzo staccato, oppure mai il potenziometri sporchi, come stai dicendo Claudio? Ciao Claudio, buonanotte. sentiamo, facci sapere però, anche se lui ha solo rompito le balle, facci sapere qualcosa. Amati Giovanni, mi spero. Un attimo. Sì, Marco. Avanti. Sì, Marco sono. Come mi... Claudio, ancora qua. Come mi ricevete? Una bomba, Marco. 9 più, quasi più 30, radio super 5 per me. Confermo anch'io. La modulazione com'è? La tua in verticale, troppo bella. Hai un effetto presenza, diciamo, allucinante, con dei medio-bassi molto, molto belli, e modulazione perfetta. Non so come ti ascolti Gianni. Ah, naturale, sono definizione mia. Aspetta che posso anche vedere un pochino, vediamo se aumento. Adesso ce l'ho a 5, posso portarlo a 6, vediamo a 6, così sono a 7, a 8, a 9, adesso a 9, così al massimo, così a 10, ritorno indietro, a 9, questa è la posizione 9, questa è la posizione 8, posizione 8, posizione 7, posizione 7, posizione 6, posizione 6, posizione 5, questa è la posizione 5, così ero come poco fa, posizione 4. 5 la migliore. Tra il 4 e il 5 per me sei più che sufficiente, tonalità, ripeto, medio-bassa con abbastanza amplificazione per poter dire che la radio è molto molto bella per me. Questa è la mia espressione in qua, sempre lo sai, no? The best. Vedi, sto usando il macchinino a 5 adesso, cioè, no, sì, il macchinino a 5, e i tuni, vediamo se cambia, così sto portando i tuni a 5, adesso l'ho portato a 7, e così sono al massimo, i tuni al massimo, adesso sto ritornando indietro, vediamo così a 2, con i tuni a 2 se è cambiato qualcosa. E qua sì, lo riconfermo, 9:20 radio 5. Lascia la 2 il tono, Marco, lascia il tono a 2 il mic game del microfono a 4, va bene così. Perfetto. Allora lasciamo così. Ma noi possiamo fare una prova per vedere come va il SSB, no? Portati un minuto, non lo so, perché qua altrimenti disturbiamo. Un secondo solo, non lo so, sul 20, sul 23, non lo so, dimmi tu, dai. Ma provate qua, che problema, dai. Allora, dai, vai un attimino, USB qua, dai, un attimino, facciamo un passaggio, tanto per vedere come va in USB. In USB. Lo vi hai detto? Come? Sì, ma dove? USB dove? Qua. Ah, ok. Si mette a posto. No, ok, c'erano un po' di cose che avevano pasticciato nel circuito, qua avevano un po' inciaffugliato nell'alimentazione, non stava funzionando bene, non c'erano, avevano sostituito il transito dell'alimentatore, avevano messo delle cose così, a membrane, senza dissipazione, non adatti per il lavoro che dovevano fare. Niente, infatti come schiacciavi i pipitivi ci abbassavano le luci quando andavi con l'alimentazione esterna, con l'alimentazione 220, adesso è con la sua alimentazione 220, è stato ripristinato il transito suo, quello che è in transito suo, quelli che erano probabilmente le erano danneggiati, ma ci avevano messo due pasticci. L'alimentazione adesso è perfetta, anche quando vado in massima potenza ecco, non ci sono attenuati nelle luci, non c'è niente. Ha fatto veramente un bel lavoro, eh. L'amico Massimiliano è sempre tovo, adesso poi col nuovo laboratorio è operativo alla grande. Ha ripristinato, come ti ho detto, anche il problema dell'orologio e i display, che prima un po' si accendeva un po' più chiari e un po' più scuri, sono tutti invece della stessa intensità. Insomma, gli ho dato veramente una risistemata e una rivisitazione generale. Ecco, mi fa piacere che la situation sia ok. Va bene, anche io vi saluto, dai, sono stanco. Vi ringrazio delle prove, della disponibilità, e magari ci ascoltiamo le prossime sere in calma, così cercare un po' anche con l'apparato nuovo. Il cambio credo che vada a mistero, mi sembra, no? Come uso normalmente dire, ciao ciao, e mi raccomando, non dimenticate. e questa è l'origine. Ciao. Ciao, ciao. La Lambo One. American Safari. Ok, ci sentiamo, Marco. Buona notte, ci sentiamo. Avanti, Luca, ci sei ancora? Ciao. Ci sono, prima ad andare saluto tutti io. Ciao, Marco. Figurati. Comunque, quello che ha messo quell'apparecchio lì è disonesto, Ma... comunque si è riuscito a metterlo a posto. Comunque complimenti, va a mettere una bella radio, il segnale lo stesso è buono, non c'è problema. Sentiamo, dai, avanti Cristian. Truxa! Ehi, avanti! Ma stai uscendo? Lo sto facendo la radio. Adesso sì, dimmi. Ecco. E siamo incastrati, salve. Va bene, allora ci sta tutti, no? Però ci sta un po' il microfono, no? È brucio. È uscito un pezzo, l'altro pezzo no. K. Chi siamo attivi? Ma niente al dattore. Sì, che ce l'ho con la stanza lì, la mamma. Fate girare per i saluti, ciao Sergio, buonanotte. Ciao, ciao, buonanotte, grazie, ciao. Salutoni, ciao Claudio, buonanotte e buon tabacco per domani, ci sentiamo le prossime. Riprendi Lu. Eia, salve pure da Piombo, io ho già salutato a Claudio, a Marco. K. Avanti Cristian. Buonasera, sono Marco, sono Claudio. Giovanni, poco fa ti hanno chiamato, non ti ha risposto. Perché mi sono aspetto con la figura, aiutare la signora in qualche presenza. E se ci sentiamo, faccio pure il cartino, dai, che sono tutto bellino. Vabbè, dai, ci sentiamo, Giovanni, la tua sappera, appena, ripeto, non portala da... capisci a me, oppure... se l'altro me lo faccio da io, te lo porto io, non c'è problema, dai. Alla prossima Giovanni, avanti Franco. Ehi, ciao Giovanni, buonanotte, buona giornata per domani, ci sentiamo alle prossime. Chi c'è rimasto? Gianni. Ogni tanto con le ricordate che ci stanno anch'io, scherzo naturalmente. Quello che l'ha parlato comunque Luca, quello... quando è arrivato da internet era bellissimo, però non era a vederlo. Ma non avesse seguito delle cazzate che ha fatto, magari non avesse dato la ripresa originale, cioè non si sa che ha fatto quindi lì. Anche se non è stato onesto, per carità, è dato il coso, sembra che è positivo, che andava bene tutto quanto. Che è bellissimo, è proprio bello veramente, bello, nuovo. Vabbè, poi Marco, non penso che sia un tipo che lo tenga male, quello è proprio un bel apparecchio, infatti come l'ho visto sono rimasto di stucco, bello veramente, cioè praticamente è un apparecchio da genere mai visto in vita mia, la prima volta. K, Davidio, c'è ancora Pomponio, c'è la Pomponio pure, Brecht. Avanti Brecht. Ciao, ti sei aperto. Sei uscito da Pizzo, ciao per fra. Non per fa sera ti ho nominato, è portavolo. Non sei più visto. Vabbè, buonasera comunque. Avanti Luca. Sì, per fra, buonasera. Ben sentito. Tu metti un dimostro di papà, vabbè, sta lavorando. Sei in compagnia mia, Riccardo, come hai sentito, poi c'è Cristian, poi c'è Salvino, se c'è ancora, poi c'è Franco del Tauro, a te Franco e Mike, avanti. Non ho sentito, chi è entrato lui? A te Franco, avanti per Franco. Ciao. Ciao, saluto mi c'è Fabio, hai sentito. Allora, cosa ci racconti già? Un attimino, scusate, San Video. Raga, attimo, sta uscendo. Negativo, non stai uscendo. Signori, conferma, io non lo sento. No, non io lo sento. Oh, un attimino, riprendo io che devo fare. QRT che devo girare la parabola e mi disturba. Ci sentiamo alle prossimine. Saluto in circolare a tutti, se non fare troppo giro, che sono in urgenza. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, Fra, dai, ci sentiamo, concorrente buon tutto. Buon lavoro, sto lavorando adesso. Alle prossime, avanti, Cristian. Cristian. Ciao, ciao, divertitevi. Grazie, grazie. Se non lo portate avanti faccio di questo, ma sì. Il corso è bello, quello è così, è bello caldo, bello familiare. Però come che quando lo dicevo, ma non lo voglio definire, non voglio definirlo, ma... Avanti, ti affacco, come ci racconti di bello? Con la parte che con il microfono lavorare. Sì, ma infatti io ti sto volando con le... Perfetto, si sta battendo bene. Infatti, si spera che lì. È forse organizzato, dobbiamo fare un bel traliccio a casa. Ascolta, qui, con il cocottaiero a San Radio, sto dicendo, ma anche io seguo ieri, quello col mic amplificato, però gli ho cambiato la capsula, gli ho messo la sua, com'è? Ma la porta ancora, è più chiara? No,